Dove sono i miei soldi? Dove sono i miei soldi? Harry, te lo chiederò ancora una volta, dopodiché ti dovrò sparare, lo capisci che la cosa mi sta tanto a cuore? Voglio i miei soldi o ti ammazzo? I tuoi soldi. E tu che cazzo sei? Che cazzo vuoi fare con quella? Ti ci ammazzo, Iaio.